segnaliamo un'iniziativa che prende il via oggi. La festa dell'altra estate nel quartiere di Garbatella, qui a Roma. Ne parliamo con Francesca Corbo, che è una delle curatrici. Ci sei, Francesca? Sì, ciao Federico, ciao a tutti. Ciao, benvenuta. Grazie. Allora, ci racconti un po', intanto, per chi ci ascolta e non la conoscesse, cos'è questa festa dell'altra estate? Sì, la festa dell'altra estate è una festa che ha luogo da 15 anni alla Casetta Rossa di Garbatella. La Casetta Rossa è uno spazio sociale autogestito dove quotidianamente si svolgono attività sociali e culturali. Sì. All'interno di queste attività a luglio organizziamo la festa dell'altra estate. Sono 12 giorni di incontri, conferenze, dibattiti, concerti, laboratori per adulti e bambini, tutti gratuiti. Sì. Senti, con che spirito era nata 15 anni fa questa festa e come si è sviluppata poi nel corso del tempo? Guarda, la festa è nata per creare un punto di aggregazione nel quartiere e per offrire appunto cultura a costo zero per gli abitanti della zona. Sì. Pian piano è cresciuta ed è diventata una festa riconosciuta in tutta la città. Abbiamo ogni sera centinaia e centinaia di persone che vengono a trovarci da tutta Roma e che partecipano alle nostre iniziative. Senti, com'è strutturata quest'anno? Allora, quante giornate? E poi sarà tutti i giorni? E poi raccontaci un po' gli orari. Sì, allora sarà tutti i giorni da oggi fino a lunedì 17. Sì. E si inizia verso le 6:30, sempre con aperitivo in concomitanza con una presentazione, un dibattito e dei laboratori per adulti e per bambini. E poi in orario serale 21:30, quindi dopo la cena, è possibile anche vedere film, assistere a spettacoli teatrali o ascoltare concerti. Oggi iniziamo con il brindisi di apertura, che sarà musicato dalla Strada Banda della Scuola Musicale di Testaccio, e stasera ci sarà Antonio Rezza con Flavia Mastrella che presenteranno il film Milano via Padova. Bene, salutaceli. Senti Francesca, poi vuoi segnalarci qualche altro artista che verrà a trovarvi? Assolutamente sì, abbiamo diversi dibattiti pomeridiani, uno su Roma, sulla città di Roma, su dove stiamo andando sia a livello sociale che culturale, e sarà il 10 luglio alle 6:30. Parteciperanno Massimiliano Smeriglio, Valerio Carrocci, Ilaria Beltramme, Raimo. Il 12 parleremo di Eni e della corsa al petrolio. Parteciperà Luca Chianca, Laura Renzi di Amnesty International e altri ospiti. Un altro interessantissimo incontro sarà venerdì 14, perché parleremo di tortura con Luigi Manconi. Poi però ci sarà spazio per le presentazioni di libri, ci saranno degli aperitivi musicali, quindi dei pomeriggi un po' più leggeri con musica dal vivo o DJ che allieveranno l'ora dell'aperitivo, mentre per quanto riguarda le serate abbiamo musica con la scuola la Mad Free Orchestra, avremo diversi musicisti romani, da Giuliana Nia a Ian Tevorta, gli Ardegore, e domani invece ci sarà un gruppo swing. Bene. Via libera anche al cinema con Smetto quando voglio, e poi ci sarà anche il teatro. Abbiamo uno spettacolo che si chiama Trilogia del Livore di Josefa Bagni, e poi tornano a trovarci Tiziano Scrocca, Claudio Morici, Daniele Parisi e Ivan Talarico, con uno spettacolo che promette bene. Sì, sì, gli ultimi che hai citato poi sono ospiti abbastanza frequenti su queste frequenze. Allora Francesca, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più sulla programmazione? Assolutamente, allora potete trovare tutto il programma sul sito casettarossa.org e gli aggiornamenti sul Facebook di Casetta, dove appunto trovate programma e news varie. Benissimo, allora un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao.